Attenzione, dice, c'è qualcuno. Attento, Gianni, lo Fiorru. Ciao, Frank. Beh, allora, che si dice, che si dice? Si dice, lui stamattina sono andato a farmi un giro a Usilo. C'era la neve, bello. Neve? Lui a fa, c'era la neve nevicata e poi anche ritornando stava nevicando. Tutta la macchina è piena di neve, tutto pieno, tutto innevato. Ma mi sono bloccato salendo sulla chiesa, lì andando verso la chiesa, non ce l'ho fatta, mi si è fermata la macchina e pattinava. Meno male che io c'ho un po' di diciamo mi destreggio, dai, con la macchina, sono riuscito a farla uscire fuori, ho girato e sono tornato indietro perché non faceva salire più su. Oh già, dammi un controllo di segnale radio, fa la cortesia. Aspetta, prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio. Il segnale si è fondo a scala. E la radio com'è, va bene? Sì, si può, già è, diciamo, accettabile. Ma QRM tu ne hai già? No, poco, uno c'ho. Non è QRM, allora è basso, è brutto. Aspetta un secondo, guarda l'eco a vedere com'è, se va bene in questa posizione. E adesso c'è un po' di checco. Ma va bene, dico, com'è? Fondo scala dentro che sono. Eia, non è ripetitivo, è tranquillo, dai, non disturba. Ok, aspetta un attimo, voglio vedere se aumentandolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio. Meglio prima, adesso ripeti di più. Faccio così, senza ecco, dai, no, non mi piace l'ecco, capito? Così va meglio, dai, senza ecco. Che microfono stai usando? Microfono normale, aspetta che metto il tanner. Che tanner c'hai? Tanner più 3. Ma peccatola! Sì. Quello mi serve per il Galaxy. Oh già, guarda con questo com'è, va meglio? Prova per un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova radio 1, 2, 3. Sì, questa è più chiara la radio. Vabbè, qui c'è un danno più 3 però. E l'altro cos'era? L'altro è il microfono suo, il microfono originale del magno. Questo è il magno che sto provando. Ah, ho capito. No, io sono con il Galaxy. E con un microfono nuovo da Palmo che non conoscevo, dai. Questa com'è la radio, fra? Bella, va benissimo. Guarda adesso questo passaggio, se il segnale aumenta. E cosa aumenta? Se si fa lo scala da prima, come ti vota, poi si aumenta. Non c'ho il che, vuol dio, Capo. Fra, eri prima a fondo scala, se anche se attacchi non si vede perché sei sempre fondo scala e di più non va. Capa di oh, yeah. Così va bene comunque, dai, troppi watt. Già va bene, dai, già va bene. L'aria ne è pochi watt, se no questo vedrò troppo a correnti. Se ti arrivi la bulletta come ti arrivi da me, su mesi. No, aspetta un attimo, Capa, vabbè, vuoi fare. Tutto il giorno piovendo sta qua. Ecco, buonasera. Ciao Gavino, buonasera. C'è l'eco adesso? Sta. Dimmi già. L'eco c'è adesso? Stai uscendo a tratti già, non ho capito perché. Ho detto così l'eco c'è? No, non riesco a capirti. Vabbè, Gavino, avanti. Buonasera Gianni, buonasera Franco. Io vi ascolto benissimo tutti e due. No, ma stavo provando l'eco dell'apparecchio, però non ci vedo, sono al buio, capito? Penso che sia questo. Guarda se così c'è l'eco. No, lei ha fatto un passaggio troppo corto, non si è sentito. Fa un passaggio più lungo, andati ecco. Prova, guarda. Anche troppo già. No, era l'eco dell'apparecchio, stavo provando quello. Fra, ho sbagliato, l'ho messo a 10 kHz spostato poco fa. Quando tu mi hai detto sto uscendo a tratti, sicuramente ho sbagliato la levetta, dai, sono al buio. E allora, Gabri, che si dice? E allora, a casa già. Bubù, che tempaccio, un tempaccio, infatti mi ha attaccato questa radio perché l'altra l'ho attaccata, non so mai qualche scarica strana, cominciamo pure la radio, quindi abbiamo attaccato questa qua stasera. Ma io stamattina sono andato a Usido a vedere la neve, mio figlio mi ha telefonato, papà andiamo, e io siamo andati, siamo fatti un giretto, ma non faceva salire sino alla chiesa perché a un certo punto la macchina mi si è bloccata e non andava più su, e sono dovuto un po' pelare per farla uscire dal ghiaccio, ma già ce l'ho fatta, piano piano, con un po' di maestria sono riuscito a farla uscire, e sono tornato indietro, ma era tutto bello bianco, tutte le macchine bianche, tutto innevato, in più stava nevicando. Sì, io ho portato a mia figlia, abbiamo portato a mia figlia stasera di pomeriggio da subito dopo pranzo nella strada di davanti di Usile. Ho continuato dritto, ho preso la sala per Mulvi, ho trovato una piazzola tutto bianco, ho giocato un po' nella neve, poi verso le 3:30 siamo arrivati a casa, abbiamo lasciato giusto 3/4 d'ora, perché poi è iniziato anche a esserci un bel po' di fresco, capito? Quindi niente, ero qua, mi stavo facendo delle cose e ho sentito dei discorsi, diciamo, all'errario, però caspita, cioè sono molti fulmini, bisogna stare attenti. Fulmini no, io qua no, qua è tutto tranquillo, non sembra. Ma bisogna stare attento anche alle scariche elettrostatiche. Quando c'è vento, l'antenna accumula corrente, mi segue, accumula energia e te la scarica sull'apparecchio. Se non è, se l'antenna non è ben cortocircuitata, ti scarica sulla radio e parte. Deve far partire, infatti bisogna usare radio, diciamo radio vecchie, quando è così e ciccia. E io non ne ho vecchie. Comunque la mia è cortocircuitata l'antenna. Con l'altra, con la Game Master, una volta sono andato a cambiare il radio e mi ha dato una chicchiata il PL. Vabbè, non c'è una radio vecchia già per quello, però diciamo non puoi usare neanche una radio a 500 euro cioè non ti puoi rischiare una radio che costa, attacco qua il Superstar e uso il Superstar, non è un problema, non c'è una radio vecchia, anche perché due e basta. No vabbè, già se la deve prendere la schicchiata la prende anche se con il circuitata, basta che non sia ben a terra a radio e la prende. Comunque ci vediamo di nuovo. Gavi, e poi di quella là hai saputo qualche cosa di quell'altra radio? In riparazione a Bologna, è arrivata la settimana scorsa a Bologna dopo due settimane di calvario di spedizione. È arrivata ed è in riparazione, non mi ha ancora fatto sapere niente, ma so che è lì, ormai so che è lì, quindi è in riparazione. Allora sei tranquillo adesso, dai. Interessante che sia lì. E magari è capace che ha tardato, boh, per qualche motivo, le feste e via dicendo, hanno tardato per quello. E l'hanno messo in deposito, dai. Io c'avevo un alimentatore che praticamente l'ho ordinato nuovo, questo alimentatore, no? Vado a provarlo, come ha attaccato la corrente, si sentito odore di bruciato, oh, cacchio, ho preso subito, ho telefonato, gli ho detto me lo rimandi indietro, te l'ho rimandato, questo alimentatore non arrivava mai. Mi sono informato sulla ditta che l'ha spedito, tutto quanto, risultava fermo a Milano, però non partiva mai per cosa. Alla fine mi hanno detto che sicuramente era stato sparito, perché non è possibile, non riuscivano a rintracciarlo più. Alla fine ho dovuto chiedere a un amico direttore alle poste, è riuscito a farlo avere, praticamente ho fatto ripartire, poi me ne hanno mandato un altro nuovo, capito? Non me l'hanno più mandato quello, me l'hanno spedito nuovo. Già, aspetta che c'è qualcuno. Ha detto Gabino, mi ascolta? Sì, buonasera, chi è? Ha detto Gabino, cambio. Sì, ciao, buonasera Franco, ti ascolto da poco fa, buonasera. Ma ti sento tutto a tratti, Gabi, come mai? Mi pare che tu sei a tratti. Sono a tratti da te, ti arrivo saltellante. Gabi, ma a tratti qualcuno? No, negativo, negativo. Sei tu, anche a me mi hai detto che mi ascoltavi a tratti. No, io lo ascolto benissimo, Gabi. Mi sembra che il difetto è il tuo, mi Franco, perché guarda che il capo di ricezione è quella radio. Vino troppo saturo. Buonasera, buonasera Carlo, com'è? Ti sento sempre saturo. Ieri com'è abbassato era perfetto. Ho il microfono troppo preamplificato. Perlomeno io ti sento così. No Carlo, non sto usando la radio che ho usato ieri, adesso sto usando un supercar, adesso provo a abbassare un po' il microfono a vedere, guarda un po' è ancora saturo il tuo microfono. Adesso meno, adesso va meglio, però proprio la voce uovo così si sente, capito? Il segnale va benissimo, come ieri ti ripeto, però diciamo Franco e Gianni li ascolto bene. Attento Carlo, mi ascolti? Magari per la tua zona sono troppo forte. È la mia voce, non ci posso fare niente qua. Dai, vediamo un po' di accontentarci tutti. Riprendi Gianni. Gabi, ma il volume del microfono a quanto ce l'hai? A tre. Io a te ti conosco di persona, so che la voce tua è bella grossa, però prova appena abbassarla a vedere se migliora, poi lo rimetti a posto com'era, guardati bene come adesso e te lo rimetti a posto se non ti va bene, prova a vedere. No vabbè, a me è uguale, non mi cambia nulla, guarda adesso è a... aspetta, io l'ho fatto fintissima velocità, guarda a vedere, ora, ehi. Adesso è proprio bassissimo, appena sopra lo zero. Adesso è perfetta, vero Carlo? Adesso così è perfetta, radio bella, squillante e pulita. Detto Carlo. Lasciamo così, allora lo lasciamo così. MB più 4 gli ho fatto la modifica, gli ho cortocircuitato quelle resistenze, è assurdo. E quel microfono ti ho mandato la fotografia già sul messaggio. Allora lo lascio così, se va bene così lo lascio così, non ci sono problemi ragazzi. Dovete essere contenti voi di sentirmi bene, perché io ho a voi che ascolto bene, quando uno ascolta bene una persona le fa piacere, quindi voglio che sia ricambiata la cosa. Dai, tutto positivo, riprendi Carlo. Adesso va benissimo come l'hai regolato, forse stava chiamando Franco, avanti. Ma non è un controllo di segnale radio, fa la cortesia. 9 più 30 qua, tutto fondo scala, radio super 5. Capa, la radio va bene. A fare un passaggio più lungo. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando parli un po' di più si sente tipo un sotto. Abbassa un pochettino anche tu. La sto abbassando. Aspetta un attimo. Cosa abbasso? Qua. Ora. Adesso meglio qua. E tu Franco come lo senti? A chi? C'è un rumore sotto, Fra. Sta innescando. Di microfono preamplificato. Adesso ancora innescando. Mettitelo il microfono, mettilo sulla gamba. Prova adesso. Adesso no, vai. Fai un passaggio lungo. Guarda un attimo, 1, 2, 3. Adesso è più libero, però ha fatto pipipi con qualche piccoletta di innesco c'è, ma molto meno di prima. Adesso non c'è, no? No. Va bene. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene? Sì, così è perfetto, così sento la tua voce pulita, invece prima si sentiva bene la voce ma c'era questo innesco, capito, alla fine. Il segnale com'è, buono? Per me è fondo scala, equivale a 9 più 30. risultato è positivo, volevo sapere da Capino come sto arrivando da lui. Ciao Franco, radio Super 5, è segnale 9 più 10, segnale 9, 5, 9 più 10, picchi positivi, dai, 9, 5 picchi positivi a 9, 10. Ed è tutto positivo, ok? Riprendi Gianni. Pappa di positivo, andava. Questi taller hanno sempre problemi di fischi, di cose, infatti ve l'ho venduto. Sempre innescalo, se li metti vicino all'apparecchio innesca, lo mettevo sulla gamba e ci va bene, lo mettevi vicino all'apparecchio e innescava. Ho provato a fare un cavo che partiva dal microfono e arrivava all'attacco dove il microfono del baracchino. Sempre problemi, niente da fare, lo mettevi sulla gamba e non innescava più. Perché la gamba è più vicina alla massa a terra, capito? Però non più di un sacco lo microfono all'anca, se mi devo sdraiare, capito? Ho sempre preferito io i microfoni da palmo, c'è poco da fare. Quindi da palmo mi posso sdraiare, vabbè, sempre in base alla comodità che uno vuole, dai. Però questi da palmo vanno molto bene. Sì, infatti io, guarda, già ne sto cercando uno che, diciamo, quei CTE originali che, dai, per intenderci, quello che monta originale quando ti fanno la modifica a Colt, ne sto cercando uno per abbinarlo normale a questo qua. Io ce l'ho abbinato al 3009, quello lì che stai dicendo tu. Niente, c'ha la carcassa della Fayette, ma la capsula della CTE. Perfetto, sì, uno così io ne sto cercando, perché l'originale, dai, quelli della Lafayette, bravo, l'originale della Lafayette con il cambio della capsula, però sono belli anche da vedere con la radio in sé, è anche una cosa di da vedere, beh, è meglio, è proprio di baracchino bello. No, il preamplificato già è bello, già, vedi, quando lo regoli, poi questo qua è modificato, tu hai detto, tu era a posto, sai di cosa ho fatto, quindi è bello, ma c'hai i pro e hai contro, devi trovare la zecca, deve essere azzeccato. Come tutte le cose deve trovare la regolazione giusta. Avanti Carlo, io lì in quel microfono lì della CTE ci avevo messo anche un LED che quando tu premevi si accendeva. Vino adesso è perfetto, la tua radio adesso la sento bene, pulita, così forse era troppo preamplificato il microfono, capito? E quindi lo faceva saturare un pochettino, invece così va bene, io lo sento benissimo adesso. Chi c'è sotto? Boh, anch'io li sento. Pensavo che fosse qualche splatter, boh. No, è gente di fuori sicuramente. Altolocati, gente altolocata. E no Carlo, il fatto è che con i controlli io qua magari ti puoi sentire in cuffia. Ma ti deve venire un altro operatore, come arrivi, no? Vedi, ma fai una prova, 2 secondi e tanto essere veloci. Va bene, grazie comunque della gentilezza che mi avete fatto per migliorare la mia rete in radio. Riprendi Carlo. Mi sento sotto dei disturbi, comunque tu li passavi tranquillamente, erano sotto di te. Non so se qualche splatter da qualche canale vicino oppure qualcuno che vuole entrare, non lo so. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10. Ciao Carlo, buonasera, no, stavo provando il suo microfono originale, aveva mi ascoltavi, tutto qua, dai, scusate. E dove ti sei messo a provare? Non so di no, che stavo provando, stavo uscendo. Bene sta andando già adesso. Adesso sì. Ma di positivo, dai. Volevo conferma da Carlo che lui ha gli orecchie sottili. A me mi ascoltava. Va bene Franco, va benissimo. Il microfono se l'hai cambiato va bene. Segnale sempre Gibbs, fondo scala per me. È fondo scala addirittura, bubu. Prendi tu Gianni. Ia. Vabbè. Adesso che controlli ce l'abbiamo dati, possiamo impostare qualche discorso, se no siamo tutta la sera domani dei controlli. Infatti basta controlli, già siamo tutti regolati bene adesso, dai. Ufficio controlli è chiuso, ormai è chiuso. E niente. E qua di neve non ne vuole sapere qua a casa, già sarebbe stata gravita un pochino. Scusate, a volte ho il cane vicino e non mi dà il respiro del bacio, e ce li ho dentro perché fuori c'è freddo qua e mi dà fastidio lasciarli fuori. E niente, neve quindi non ce ne dà? Ma zona nostra mi sa che siamo troppo in basso, ma la zona di Osino ha nevicato anche stamattina e poi c'era un'aria, non so se Carlo l'ha visto, gli ho mandato il filmato, si è visto le nuvole che c'erano grigie, belle piene. Gianni, già ho visto, però anche dalla finestra di casa qua vedevo tutta la zona di Orsi, tutto bianco, capito? Anche andando verso, da Orsi ti sposti verso Ittiri, quella zona era tutto bianco, senza Osilo pure, insomma, tutte quelle, tutto intorno a Sassari era bianco. Zona di invece Alghero, e, diciamo zona del mare, zona costiera, Sassari compreso, tutto senza neve invece, solo pioggia. Io a Osilo sono arrivato rifornitore, sono salito su, ho passato l'incrocio e poi c'era il divieto, non si poteva salire alla chiesa. Come mi sono fermato, la macchina non si muoveva più, caro. Poi Osilo tutto in salita, se ghiaccia appena lì è un problema, poi a venire giù. E io sai cosa ho fatto? Io ho mollato appena retromarcia, c'era un pezzo dove poter girare, ho mollato appena retromarcia e poi ho dato un'accelerata di colpo e sono uscito fuori. Sicuramente poi sulle strade avranno messo anche il sale, capito, l'ANAS o il comune lì, adesso non so chi si occupa di quelle strade lì, perché comunque di notte sta scendendo la temperatura, quindi probabilmente se lasci la neve ghiaccia ed è peggio poi, capito, quindi invece metti il sale, dovrebbe sciogliere tutto. All'entrata di Osilo c'era ghiaccio nella strada, c'era, era anche visibile, quindi un po' di ghiaccio c'era, però ho visto che c'era protezione civile eccetera eccetera, sicuramente provvedono loro quando si ghiaccia, buttano il sale, e noi non è che siamo tanto attrezzati come macchine operatrici per spalare neve eccetera. In continente non sono problemi, quando c'è la neve spazzano, liberano la strada e via. Esatto, io mi sono sul tavolo che mi sto scrivendo le istruzioni, ci hanno mandato per il rifornimento della macchina di servizio perché hanno cambiato la pompa di benzina, diciamo, del diesel che abbiamo dentro, no? Adesso c'è una chiavetta gialla, insomma, e bisogna farsi riconoscere con questa chiavetta, inserire il codice operatore, insomma un sacco di cose nuove. Oh, questa tecnologia sono solo paranoie, devi ricordare tutto, se hai poca memoria guai. Fortuna che ho il cellulare, cioè nel telefonino ho l'applicazione, quella Samsung Note, no? E là mi metto tutte le cose che ti puoi dimenticare, no? Quando ti servono, riesci a vedere com'era questa cosa, se no davvero tra tante cose ti dimentichi, invece prendo, mi scrivo tutto sul cellulare e così non ho problemi. Intanto guarda il cellulare, ovunque andiamo ce l'abbiamo sempre appresso. Allora, a me da poco mi hanno cambiato la carta di credito e anche un altro numero di codice. L'altro giorno sono andato a fare la spesa e ho avuto un'amnesia, non mi ricordavo più il numero, pensa che ti ripensa, poi alla fine me l'ho ricordato, però intanto questa amnesia l'ho avuta. Segnatelo nel telefonino senza scrivere niente, come ho fatto io, in maniera tale trovare il telefonino, così non sanno a che cosa corrisponde il PIN, capito, che insomma sono 5 numeri, se c'hai la Banca Intesa è così, 5 numeri. Sì, ho la Banca Intesa io. Gavi, e tu buona memoria c'hai? Ma lascia perdere che l'altro giorno solo stavo facendo. Ho preso, mi hanno telefonato, ho detto va bene, dopo tutto il discorso, bene, va bene, ciao, hanno chiuso il telefono, e sono rimasto, secondo me, 30-40 secondi sempre col telefonino nell'orecchio, cercando il telefono, ma secondo te? Ovviamente qualche volta mi capita che per dire apro il frigorifero per prendere qualcosa e poi non mi ricordo che cosa devo prendere, poi ci penso bene e me lo ricordo. Dai. Però intanto queste amnesie vengono. Ma è normale, dai. È normale fra gli umani. Mi Franco c'ha buona memoria, Franco, mamma mia. Aspetta un attimo, già sto facendo una questione, riprendo subito, prendo il caffè. Ah, e pida caffè, va bene. E comunque, succede, dai, succede che la memoria è una cosa seria, bisogna ogni tanto fare cura di fosforo. Bisogna più che altro allenarla la memoria. Sembra così, ma la memoria bisogna allenarla. Se noi facciamo le cose, anche fare per esempio delle cose che le fai una volta e basta, quelle le prendi gli archivi, io certe cose le archivio, ma le archivio proprio alla grande. E invece bisogna proprio non lo dico io, lo dicono gli esperti, dicono allenare la memoria, perché è un problema, A volte io faccio delle cose che, non lo so, mi lascio la macchina in moto, mi lascio il furgone in moto, entro a casa e lascio il furgone in moto. Guarda, lascia stare, io proprio a testa a zero. Sai come si allena la memoria? Anche facendo cruciverba, leggendo. Io leggo molto, però adesso che c'è internet mi informo, qualsiasi cosa, magari abbi dei dubbi, non so che cosa serve quello, vado subito, cerco, mi informo, leggo, però ogni tanto mi butti pure a me, vabbè, io ho 63 anni, quindi è anche comprensibile che magari qualcosa ti dimentichi. Infatti a 60 anni, dai, qualcosa può sfuggire. Una persona ha sempre lavorato, ha sempre fatto un po' di pensieri, un po' di cose, logico, ma a 40 anni non è una cosa bella, vabbè, che magari avremmo avuto, se saremmo nati ricchi o magari senza problemi, un po' di rigore ci sarebbe rimasto, però grazie a Dio ogni giorno ce n'è una, quindi i pensieri ci sono e ci sono anche tante cose da risolvere, e quindi di alcuni discorsi te ne dimentichi. Anche io faccio molta ricerca di cultura generale in internet, mi informo, ma l'ho sempre fatto, da quando anche io l'ho sempre fatto, mi piace informarmi un po' di tutto. Però la memoria, però per esempio se mi dici cosa ho mangiato ieri a mezzogiorno non me lo ricordo, ma proprio non me lo ricordo. Vabbè, io la cosa più grossa che ho fatto, se ve la racconto vi faccio ridere. Sì, lascia perdere cose grosse, Giulia. Ne avevo una storia, posso scrivere 40 libri. E quindi caro, che hanno messo anche il pensiero della pompa del gasolio, sicuramente quella chiavetta lì magari cosa ha fatto, c'è un codice utente che allora gli risulta che tu in un mese hai messo 40 litri di gasolio, quello là ha messo altri 20 litri di gasolio, e poi fanno i conti di quanto consuma la macchina, i chilometri che avete fatto, e sanno anche cosa avete fatto minuto per minuto alla fine. Ma questa è tutta la procedura, qua praticamente prima ti devi far dare la chiave, devi andare dove c'è un cancelletto, dove ci sono gli operatori OWA e hanno loro la chiave, dopodiché se non c'è lì la chiave devi chiamare il caposquadra di chi fa il servizio a terra, no, che c'è a lui la chiave, poi ti dà la chiave, devi andare alla pompa, aprire il cancelletto, sollevare una serrandina e poi devi usare la chiavetta numero 1 gialla per far riconoscere l'operatore, dopodiché devi usare la chiavetta blu per riconoscere il mezzo, inserire i chilometri del mezzo e confermare con enter, selezionare il tasto 1 oppure confermare enter e poi rifornire, insomma alla fine ci vuole mezz'ora per preparare tutto, capito, per fare il pieno, per fortuna già mi capita una volta al mese a me di mettere benzina lì. Sì, vabbè, perché poi alla fine, perché altrimenti lo stipendio non te l'hai lavorato al completo, capito? Quindi ci vogliono anche le cose burocratiche, ma vabbè, basta fare gasolio quando c'entra in turno, perché magari vogliono che fai gasolio anche dopo che finisci il turno. Inizio il turno e vado a fare gasolio per 2 ore e mezzo, così vedrai che tempo un anno tolgono quello che hanno messo, per carità. Tutte queste cose qua, secondo me, sono come si potevano risolvere, assumendo una persona per fare questo compito qua. C'è un responsabile per il gasolio, per le cose, diciamo, burocratiche, e dai lavoro a un'altra persona, non a una chiavetta o a chi. Già hai toccato il cuore di chi si assume. Oh yeah. Lo so, capì, è più semplice, però la persona vuole pagarla e devi pagarla sempre il doppio di quello che tu la paghi normalmente, perché devi pagare l'assicurazione, devi pagare tutte le cose, e quindi va a finire che gli dai il doppio dello stipendio, per cui si fanno un giro di conti e non gli conviene. Comunque Gianni, contenti loro, e per quello il mondo sta andando a morire. Per quello che c'è, cioè, disoccupati preferiscono dare sussidi, e dati sussidi rosati. Vuol dire che va bene così la cosa, vuol dire che va bene così. Ne riparliamo fra 20 anni, se ci troviamo, ne riparleremo. Ma lo senti il cane? Cosa c'hai? Sì. Cosa c'hai? Cioè è assurdo questo qua, si mette a parlare. Gabi, che bellino. Ci dai un calduccio di cani, Gabi. Io glielo faccio e lui mi imita. A proposito di cane, non sai qual è la cosa più grossa che ho fatto? Siamo usciti con il cane, con la mia compagna, siamo usciti col cane, sono andato a prenderla al lavoro, sono ritornato a casa, scendiamo dalla macchina, usciamo tutto quanto, e la mia compagna mi fa: ma dove stai? Ma sto stagio correndo di cari. Vabbè, dopo 2 minuti, però intanto sono sceso giù, gli ho aperto il cofano e lui era tutto bello accucciato, tranquillo dentro la macchina. Cioè, il pericolo di scapparti il cane. Stamattina sono sceso a Porto Torres a fare un lavoro. Poverino, c'era un tipo, un cane picco tipo Jack Russell, quella razza lì, una roba del genere, investito al centro della strada dove c'è la casa cantoniera all'ingresso di Porto Torres. Non ha fatto una pena. Poveraccio. Anche ne hanno visto anche uno la Budi, perché l'ho visto su internet prima del bivio per andare verso Source e coso lì, dove c'è proprio lo spartitraffico, l'ha fotografato un'amica mia, si è fermata anche per vedere col pericolo, perché lì che corrono le macchine, per vedere se era ancora vivo, ma ha detto che era morto. E tu devi vedere come passano qua davanti a casa. Tu devi vedere come passano davanti a casa, già fanno schifo. Fanno schifo, qualche giorno gli tirano la lavatrice, buscano la lavatrice vecchia e gliela mettono in mezzo strada. E soprattutto i pullman e i camion, passano a palla. Qua, non lo so cosa fare, non lo so. Perché non è vero che neanche, non si mette neanche giustizia qua a fare prostituto, capito? Perché poi ci vorrebbe il prostituto. E poi adesso quando li fanno li segnalano, quindi ma cosa valgono? Uno lo sa dove c'è, quindi rallentare e dopo continua a camminare se vuole camminare. E comunque prima quando li facevano provocavano anche incidenti, io mi ricordo quando mettevano quelle strisce, non so se tu ce le hai conosciute, quelle strisce che mettevano nella strada, che tu passavi sopra e ti segnavano la velocità. Una volta lì scendendo dalla 131 verso Porto Torres, l'avevano messo lì dopo il bivio di Platamona lì. L'avevano messo lì, questo qui l'ha visto all'ultimo momento, ha frenato di colpo, casi si sono sbattute le macchine una dietro l'altra, ma ogni dopo la metà catena un vedi feriti, siamo andati noi con l'ambulanza a prendere. Sì, vabbè, incidenti per queste cose qua, perché chi inchioda, chi poi va inchiodando, chi distratto, che cosa, qua un problema. Carlo, se riprendi io faccio un attimino di bianco perché devo entrare in bagno. Sì, già sono qua, io stavo ascoltandovi, ma stavo scrivendo, adesso riprendo io. No, così rispondo a Gianni. Gianni, il problema di prima, no, della memoria, stavamo parlando. Allora, io per dirti, no, per aprire le porte devo usare un codice. Quando mi siedo al monitor, che è il mio turno, devo mettere un altro codice. Allora, poi c'è la sala formazione, dobbiamo fare un'ora al mese e lì c'è un altro codice. Vai a prelevare e c'è un altro codice. Vai a, che ne so, ad entrare sulla posta elettronica aziendale e anche lì dobbiamo inserire le nostre credenziali d'accesso, quindi nome utente e password, capito? Poi per qualsiasi cosa è tutto nome utente e password, oppure codici o PIN e questo e quell'altro. Sino a 20 anni fa tutte queste cose non ce le avevamo, quindi i gesti e diciamo gli eventi quotidiani che facciamo erano sempre quelli: uscivi a fare la spesa, pagavi col contante, il contante ce l'avevi quasi sempre perché prelevavi solo una volta, oppure c'erano gli assegni per cui pagavi con l'assegno, oppure andavi direttamente, facevi il prelievo in cassa come si faceva prima, e non avevamo tutte queste cose. Adesso è facile dimenticarsi o avere i vuoti di memoria, perché poi in continuazione devi aggiornare la password, devi aggiornare il PIN, lo devi mettere più sicuro, quindi e vai e cambia eccetera, ed è un continuo stilicidio per la mente, capito? Quindi stare appresso a tutte queste cose, è ovvio che ogni tanto ti dimentichi, oppure la cosa più comoda secondo me è scrivertele in un posto sicuro, e quando dimentichi qualcosa vai là e cerchi e la trovi, se no davvero ce n'è da uscire fuori di testa, capito? Sì, certo, sì, io ho fatto così, infatti, ho fatto anche io così, ma per dirti, anche io quando entro al computer sempre password, nickname, in certi posti ti chiedono poi il coso, io ogni volta cambio poi l'indirizzo di posta elettronica e me ne dimentico, quella sì, quella me la dimentico sempre, non me ne ricordo mai. Se poi andiamo anche a parlare dello speed, anche lì fai lo speed e ti registri nome utente e la password, no, per entrare ogni sei mesi cambiano e devi mettere la password nuova, quindi devi inserire la vecchia, inventartene una nuova e rimetterla. La password deve avere almeno, deve essere lunga almeno con 8 caratteri, devono contenere una lettera maiuscola, delle lettere minuscole, dei numeri e un carattere speciale, tutte le volte così. Quindi se non vai a scriverti tutto oggigiorno è facile dimenticare, capito? Perché abbiamo la memoria a un limite, non ti puoi ricordare tutto, capito? Anzi, io troppe cose mi ricordo. E alla fine è ovvio che succede che qualche volta magari ti trovi in difficoltà, anche a me è capitato andare, per dire, di usare il banco, ma andare a pagare, inserisca il PIN e il PIN lì per lì non te lo ricordi. Per fortuna c'è il telefonino, un attimino, che ho cambiato da poco il bancomat e quindi ancora non l'ho memorizzato, me lo controllo, capito? Invece magari non è vero, è proprio perché in testa hai tanti numeri, tante cose, e quindi è facile dimenticare, capito già? Sì, sì, è vero. Addirittura anche il mio diabetologo, so cosa gli costerebbe quando vai a fare la visita, ti dà l'appuntamento per la prossima volta, invece no, devi fare prima tutte le analisi, mandarle via email e poi lui ti dirà quando devi andare, ti manda un'email e ti dice venga il giorno alle 10 per dire, e a volte non mi accetta il suo indirizzo email, o lo cambio, o cosa, non ci avvisano, e poi i casini ce li abbiamo noi, capito? L'ha cambiato due o tre volte e io non riuscivo a mandargliela, alla fine ho dovuto telefonare al centro e a risponderti, sai com'è, ti mettono questo cavolo di voce guida che ti fa venire l'Alzheimer ogni volta. discorso è bisogna conviverci ormai con la tecnologia, con tutte queste nuove regole, capito? Adesso i giorni scorsi stavo leggendo, anche io sto sempre a leggere così a informarmi, che piano piano vogliono togliere lo speed e praticamente vogliono fare in modo che tutti usino la nuova carta d'identità elettronica, capito, per accedere, per dire, a siti come l'INPS oppure altri siti dove era richiesto lo speed, adesso puoi entrare con la carta d'identità elettronica, capito? Infatti per esempio c'è il portale, quello dell'automobilista, dove ti controlli i punti della patente quando scade l'assicurazione, io sono registrato e lì devi entrare con lo speed, però adesso ti fa entrare anche con la carta d'identità, capito? Devi attivare il modulo NFC sul cellulare, che è come attivare il Bluetooth, no, basta che metti l'NFC, poi la metti dietro, praticamente l'NFC riconosce la tua carta d'identità e automaticamente ti fa entrare, capito? E alla fine stanno sempre cambia, capito? Speriamo di, quando andrò in pensione, almeno mi alleggerisco la mente, capito? E alla fine riesci magari a fare meglio le cose. Sembra così, però la mettiamo sotto stress la mente. Franco, è finito. Franco, si è messo. Gabino? Sì, sono arrivato adesso. Riprenditela, stavo parlando di tutti questi numeretti che ci dobbiamo ricordare per pagare, per entrare su internet, tutti i numeri che dobbiamo mettere, e la mente lavora in questa maniera al massimo proprio. E io le password delle cose, io ce le ho tutte segnate. Sono tutte segnate in un foglio e quando devo entrare le guardo, alcune me le ricordo a memoria perché dai, non sono così complicato, però diciamo quelle che uso poco e niente ce le ho scritte. Sì. E però ce l'ho già. Anche secondo me tutti questi numeretti sono fatti apposta per controllare quante volte, cioè siamo controllati in tutto, siamo controllati in tutto, perché tramite ogni cosa, se tu metti la mail, la password, e loro una volta che hanno la mail prendono e sanno quante volte tu per esempio entri su Subito, entri su Facebook, entri quello, entri, controllano tutto, siamo controllati in tutto. Sì, quello è poco ma sicuro. Quando entri su internet sanno a che ora sei entrato, a che ora è chiuso, cioè sai tutto, lo sanno qualsiasi persona. C'è un modo per non farti controllare, per metterti sempre disconnesso anche quando sei connesso? Lo stava spiegando questo ragazzo su TikTok l'altro giorno, ma non mi sono preso i passaggi perché non mi interessava. Ma si vede che a me non mi controlla nessuno. No, ma infatti, ma a me non è che mi interessi più di tanto la cosa, no, non sto facendo niente di male, quindi non devo temere niente, Allora, sono uscito un attimino fuori, c'è freddo, c'è freddo e vento, venticello fresco. Ci aveva un simbolo stamattina e non riuscivo a capire, sono andato poi su internet a controllare e praticamente lo mette quando la temperatura è al di sotto di 4 gradi e infatti tutto Osilo, tutto sino a scendere giù a Sassari era sempre così, ma è restato anche a Sassari, quindi sicuramente la temperatura era bassa anche qua stamattina. Guarda, qua a casa c'erano 4 gradi e mezzo, 4 gradi e mezzo. No, con la mia segna quando è sotto i 3 gradi, l'anno scorso che è scesa la temperatura, mi avvertiva, mi diceva che è possibile manto ghiacciato quando scende sotto i 3 gradi, possibile manto ghiacciato, proprio me lo segna il computerino. Sì, a me mi mette il simbolo della neve anche. Vabbè, comunque questo qui era nuovo, non ce l'ha mai acceso. Vabbè, in mezzo alla neve non ce l'ho mai andato, quindi questa qui con questa macchina qua, forse è la prima volta che vado a vedere la neve, perché prima c'avevo la Station Velo, te lo ricordi, capì? Era bella quella macchina. L'ho venduta e sta ancora circolando, con 350.000 km l'ho venduta. L'ho calata. E allora, l'ho venduta con 350.000 km, c'aveva un difetto, praticamente tu andavi a accelerare, ti la stavo tutta a rimettere da posto, le avevo cambiato tutte le gomme, ho cambiato la bobina, gli ho fatto tutto il tagliato, tutto quanto, però c'era questo difetto che tu quando andavi a accelerare non prendeva l'accelerata a volte. E a volte mi sono trovato male perché magari in sorpasso, cavolo, piglia l'accelerata da ciapì, non sai cosa va. E l'avevo portata a Luigi, già hai capito, via Fermi. Non ha mai cavato bene. L'ho venduta questo qui a Sassari, l'ha portata a Sassari e gli hanno cambiato un sensore dell'acceleratore e la macchina va alla grande. Lui mi ha detto, io sono andato anche in continente con la macchina tua dopo che me l'hai venduta. Sì, perché le Opel hanno tutte l'acceleratore elettronico, non è a cavetto, capito come hai detto. Sono acceleratore elettronico. Basta cambiare il sensore, gli cambi il sensore e tornano a posto. Tu pensa che io avevo il classe A, il CDI, il 180, e poi l'ho venduto perché non, perché era già un po' chilometrato, aveva quasi 180.000 km, l'ho venduto, classe A, dai, il penultimo modello. Nuova, nuova. Un giorno prende, non saliva di giro la macchina, la porto alla Mercedes a fare il, la diagnosi. Non sai cosa era? Il sensore della, del freno. Il sensore del freno, quando tu schia, quando in pratica con la macchina lì, quando partiva questo sensore, mi cercano in internet, quando partiva questo sensore qua, non faceva salire la macchina di giri perché a me mi aveva spiegato il capo officina della, della Mercedes che è una cosa di, che se che la macchina ti dice che non frena, quindi ti, non cammina neanche. Uscendo, cioè, io ho detto chissà cosa c'ha questa macchina, valvola GR, perché avevo cambiato anche la valvola GR io con la macchina lì, e invece era questo, questo sensore, 30 euro. Andava in protezione praticamente, dice non accelero così dopo se non frena. Beh, queste qui sono diciamo le cose della tecnologia. Io invece punti, dopo i punti stavo facendo un sorpasso e meno male che ce l'ho fatta rientrarmene perché non accelerava più la macchina e me la sono vista brutta, comunque. L'ho venduta una cazzata, l'ho venduta con la macchina, ed era nuova, nuova, cioè tenuta bene, perfettamente, poi tu già la vedevi. L'unica cosa che aveva è che gli avevo bucato la capota e un giorno sono andato in via Umberto, dovevo trovare parcheggio, ho visto un parcheggio di fronte al cinema moderno, entro lì che ho detto, tum, gli agoi, poi dove è successo? E cosa mi ero dimenticato? Che c'avevo l'antenna, quella alta, cavolo, toccato e me ne ha saltato la, proprio tutto il bulbo dalla capota, capito? E allora cosa avevo fatto io? Ho preso uno di quei tappi che si mettono nei bidet quando cambi i rubinetti, capito? Ce ne prendi quei tappi dorati, argentati, ci sono dorati, ci sono argentati, ne ho preso uno di quelli lì che davano sul blu, praticamente poi l'ho verniciato il colore della macchina e non si vedeva nulla, e gli ho messo quello, capito? Gli ho messo silicone e sotto non entrava più di Eva. Sì, no, la tua era tenuta bene la macchina, me la ricordo che era perfetta, ma ne fanno chilometri quelle macchine, ne fanno chilometri, non basta la macchina, le macchine le fanno tutti i chilometri, dice ma la macchina nasce male, la macchina non è che nasce male, la macchina, soprattutto i turbodiesel, i turbobenzina, l'importante è sempre farla scaldare la mattina, se si ha un passo un po' veloce prima di spegnerla bisogna lasciarla 10-20 secondi prima di spegnerla, in modo che la turbina prenda e scarichi l'olio in eccesso, e usi la macchina tipo. Io ho un amico che ha una Golf, quando ogni volta che la vedo rimango scioccato. Adesso ha 565.000 km fatti da lavori ordinari, no? Frizione, freni, tagliandi, tutte queste cose qua, sensori, però il motore originale ha quel chilometraggio. È assurda, è il TDI di 110 cavalli, motore riuscito benissimo, cioè progettato benissimo, è affidabilissimo. Sì, quelle macchine veramente sono trini. Anche l'Astra, io ho un amico che ha un'Astra, come ce l'hai tu, 1007 CDTI, e mi sembra che ha 400.000 km, 400-450.000 km. Sempre tagliandato, ogni 10.000 km, a terra, filtri, tutte queste cose. Pasquale, lanciamo a Carlo, poi continuiamo il discorso. Avanti, Carlo. Sì, Gavino, ho sentito il tuo cagnolino abbaiare o lamentarsi, non lo so cosa sta facendo, si sente sotto. Sì, no, ce l'ho qua, perché ti ripeto, fuori non lo senti, allora sì, perché vuole accarezzarlo, vieni, il fornese, questo è un pastore fornese, un pastore fornese extra large di 50 kg, fermo però, oh mamma mia che sei un monello, un pastore fornese di 50 kg, c'ho questo e un pastore tedesco incrociato con un pastore belga, basta, oh ma, lo senti? Se vuole parlare alla radio. No, già sono curioso i cani, già uno dei pochi animali che mi piacciono, dei pochi, già mi piacciono un po' tutti, però il cane l'ho sempre avuto io da piccolo, ne ho avuto tanti, mio padre faceva il veterinario, per cui non ci sono mai mancati i cani, capito? Sì, no, io a loro li tengo come i miei figli. Li tengo, cioè loro vivono come fanno il loro lavoro, però li tengo bene, vedi? Sono puliti, possono entrare dentro casa quando serve, loro sono pulitissimi, solo che questo qua è un po' monellino, perché vuole sempre giocare, questo ha 4 anni e il piccolo ne ha 2, ma questo qua è un giocherellone, Ebbene. Cosa che faccio? Calmati. Vuole giocare, dai. Perché magari sono dentro casa e quindi a dire ci ha portato dentro e quindi ci annoiamo e ci deve un po' giocare. Ma tu vivi allo spazio, no? Vivi in campagna, Gavi? Sì, io vivo in campagna, loro hanno 7.000 metri di terra per giocare. No, ma quando fa così, quando è contento perché vuole giocare, capito? Perché è contento che è dentro e vuole attenzione. E poi adesso è quasi l'ora della pappa, quindi cosa mangi tu? Cosa mangi? La pappa? Che cosa vuoi? Cosa vuoi? Che cosa mangi? La pasta? La vuoi la pasta? Eh? Cosa vuoi, la pappa o la trippa? La trippa. E ti sta rispondendo, la trippa gli piace di più della pasta, mi sa. Già sono curiosi, sì. E io ne ho avuto uno che era intelligentissimo, era di quelli grandi, un levriere inglese, quelli striati, grigi e a striature nere, no? Grande però. E addirittura cosa faceva questo cane? E quando mia madre la domenica andava a messa, la seguiva, aspettava fuori dalla chiesa, non si muoveva, e quando riusciva dalla messa, la riaccompagnava a casa, capito? Come ringraziamento, perché era mia madre che gli dava sempre da mangiare, capito? Eppure mamma non ci giocava quasi mai col cane, non è che lo stava lì a, però gli dava da mangiare, per cui lui come riconoscenza tutte le volte che usciva faceva la scorta, se andava in chiesa o andava al negozio, però in chiesa era curioso perché aspettava tutta la durata della messa, capito, perché uscisse, capito, al negozio magari fa in un attimo, ma la messa dura almeno quella mezz'ora, e lui se ne stava là buono buono fuori dalla chiesa, capito, e sono riconoscenti anche come animali, capito. Sì, poi questi qua sono uguali, questi qua sono bravi, però la verità sono anche un po', sono molto diffidenti con gli estranei, sono molto diffidenti, ma non che morsicano, però per esempio quando c'è qualcuno al cancello non si avvicina al cancello, rimangono sempre vicino alla casa. Non sono di quei cani che prendono, che fanno le cose, no, quando viene qualcuno sono diffidenti, infatti li chiudo e perché non si sa mai, anche quando esco fuori con la bambina la vogliono bene, però non mi fido, ma non perché non conosco i miei cani, ma perché la bambina è bambina, quindi magari può fare qualcosa che allora non va e ciccio. Sono belli, ma bisogna stare anche attenti, i cani grandi sono impegnativi. Sì, sono d'accordo con te, perché sono anche diciamo animali che sono affettuosi, ma allo stesso tempo hanno la diciamo proteggono il padrone e anche la proprietà, quindi il loro territorio, quindi basta poco perché magari anche un membro della famiglia diverso dalla, diciamo, da chi se ne prende cura, se è sempre del cane, cioè il padrone, magari fa qualcosa e l'animale magari non lo approva e può reagire in maniera diversa, poi soprattutto quando sono bambini loro si rendono conto che sono piccoli e quindi li vogliono annientare, ma più che altro questa è una loro natura di quasi tutti gli animali, capito? Si devono imporre con quello più piccolo e quindi lo fanno per quello, non neanche perché sono aggressivi o che cosa. Poi ci sono quelle razze di cani che sono proprio di indole aggressiva e quelli combinano un sacco di guai, insomma, dai, così è, Gavi, con i cani bisogna sempre starci attenti. Sì, infatti a me quando mi dicono non lo posso toccare, ma aspetta, quando va io perché li porto, capito? Mi dicono che belli, lo posso toccare, aspetta, non prendere la cosa euforica perché non sai mai come può reagire se è subito a toccargli la testa. Il cane non si tocca e lo guarda il cane negli occhi, non si guarda, molta gente piacciono i cani, però anche perché non si sanno le cose, quindi il cane negli occhi non si guarda mai, non si accarezza mai la testa, quando ridi non lo devi mai accarezzare perché il cane ti sta facendo vedere i denti. Ci sono tutte queste cose, dai, ci sono tanti modi per far pensare male a un animale. Sì, vediamo se ha preso o se si è liberato. Ci sei, Franco? Con la museruola, capì? Perché se la gente, allora io sto lontano dalle persone perché so come è fatto e sono loro che si avvicinano. Dico, no, non lo toccare perché il cane, se non conosce la gente, ti salta addosso. No, ma a me non mi fa nulla.